24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Raffaella Calandra. In primo piano in questa edizione di 24 ore in Europa, i timori per la situazione in Spagna, i sondaggi pro-euro che arrivano dalla Grecia, ma anche la nuova bufera che coinvolge il calcio italiano. Partiamo dunque dalla Spagna, dall'SOS per il quarto istituto del paese. Il governo starebbe valutando il ricorso al debito pubblico per il salvataggio della Bankia. Non ci sarà un salvataggio europeo, ha detto il premier Mariano Rajoy, secondo cui la Spagna non ha chiesto alla BCE di immettere liquidità. Rajoy ha però dovuto ammettere che per Madrid è diventato molto difficile rifinanziarsi sui mercati ai livelli attuali dei tassi e servirebbero altri 30 miliardi di euro per effettuare operazioni simili su altri tre istituti regionali già sotto tutela dello Stato spagnolo. Da Madrid ad Atene, in vista della nuova tornata elettorale in Grecia, i sondaggi danno per favoriti i partiti pro-euro, una prospettiva questa che ad inizio seduto aveva dato fiato alle borse europee, affossate poi dai timori per la Spagna. Effetto banche spagnole sui listini europei. Il quarto istituto iberico, Bankia, ha chiesto venerdì sera al governo di Madrid di partecipare con ben 19 miliardi di euro alla ricapitalizzazione della banca e la notizia ha riportato preoccupazione su tutto il settore. A Milano, da sempre una delle piazze più esposte sui bancari, l'indice principale ha perso lo 0,74% e il FTSE share lo 0,69%. Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, Banco Popolare e Mediolanum hanno perso fra il 3 e il 4% e anche i Big, Intesa San Paolo e Unicredit, hanno ceduto oltre un punto percentuale. Fra gli industriali, male Fiat, meno 2,2%, che da luglio inizierà a comprare la quota di Chrysler ancora nelle mani del fondo sanitario del sindacato dei metalmeccanici americani. In controtendenza invece si è mossa Autogrill. La società controllata dalla famiglia Benetton ha guadagnato l'1,9% sulle indiscrezioni di una possibile separazione delle attività di duty free che rappresentano circa un terzo del fatturato del gruppo. Guido Maurino, da Radio Corp Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ad Atene ieri c'è stato lo sciopero generale di tutto il mondo dei media contro i tagli. Della situazione europea ha parlato ieri anche il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, il numero uno degli imprenditori italiani non vuol sentir parlare di una possibile uscita della Grecia dall'euro. Se fosse così poi potrebbe toccare alla Spagna e poi probabilmente ci saremmo noi e salterebbe tutto in Europa, è il monito di Squinzi secondo cui occorre fare di tutto per difendere questa situazione. E riguardo all'Italia Squinzi si è soffermato soprattutto sui tagli alla spesa. I tagli alla spesa pubblica sono importantissimi, bisogna fare tutto quello che si può fare anche per evitare che il carico fiscale sia troppo elevato per le imprese e per i cittadini. Dall'Europa agli Stati Uniti, dalla Cina alla Russia è unanime la condanna del mondo contro il regime siriano dopo il massacro di Hula, costato la vita ad oltre 100 persone tra cui moltissimi bimbi. Serrande abbassate ieri a Damasco in segno di protesta ed è la prima volta dopo 15 mesi di rivolta. L'attenzione internazionale è dunque altissima, ma il premier britannico David Cameron insieme al presidente francese François Hollande hanno concordato di intensificare ulteriormente la pressione su Damasco e di convocare a Parigi la prossima riunione del gruppo Amici della Siria. Sono inorridito dal massacro, commenta Kofi Annan, inviato dell'ONU che arriverà nelle prossime ore da Assad. Non c'è più tempo da perdere, aggiunge il ministro degli esteri italiano Giulio Terzi. E siamo alla cronaca italiana, alla vigilia quasi degli europei, in Polonia e Ucraina una nuova bufera investe il calcio. 19 arresti e perquisizioni per questa nuova puntata dell'inchiesta sul calcio scommesse che da Cremona ha ricostruito puntate e affari in mezzo mondo. Gli inquirenti sono stati anche nel ritiro della nazionale a Coverciano e sono due gli azzurri coinvolti nell'indagine, Criscito e Bonucci. Quest'ultimo al momento resta tra i giocatori convocati per la partita Italia-Lussemburgo, ma proprio oggi Prandelli sceglierà i due ulteriori tagli prima di consegnare la lista dei 23 convocati per l'Europeo. Ma come dicevamo, questa è solo l'ultima puntata dell'inchiesta. Un'indagine lunga un anno, partita dalla provincia del Grande Calcio, Cremona, ma che ora ne scuote le fondamenta. Tutto è iniziato dall'arresto del portiere della Cremonese, Paoloni, accusato di aver messo un sedativo nell'acqua di suoi quattro colleghi per perdere un match. Da lì le indagini che hanno portato all'arresto dell'ex bomber Beppe Signori e l'ex idolo della curva dell'Atalanta, Cristiano Doni. Un triangolo delle Bermude che ha i vertici in Cremona, Singapore, meta e fonte del denaro sporco e Budapest. Proprio ungherese è il nuovo gruppo di scommettitori e facilitatori che ha progressivamente sostituito gli slavi, i croati, i cosiddetti zingari, colpiti dalla prima fase dell'inchiesta. Del resto Signori era ancora a stretto contatto con quel calcio magiaro dove aveva chiuso la carriera e importanti conferme per gli inquirenti sono arrivati da Gábor Horvat, calciatore ungherese corrotto e ora pentito. Mancano ancora però in questo quadro le nuove mosse delle procure più importanti, Napoli e Bari. All'ombra del Vesuvio si attendono sviluppi sulle confessioni dell'ex portiere Gianello. A Bari le indagini proseguono dopo l'ammissione shock di Andrea Masiello, capitano biancorosso, vendutosi per un autogol. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora sport, il segretario generale del Comitato Olimpico Ucraino, Volodymyr Gerashenko, è stato cacciato perché sospettato di aver venduto al mercato nero alcuni biglietti di gare delle Olimpiadi di Londra. Lo ha reso noto lo stesso comitato. Il dirigente era stato accusato da un'inchiesta della BBC di aver offerto un centinaio di biglietti per le gare di Londra 2012 per un valore totale di alcune migliaia di dollari perché fossero venduti al mercato nero. Andiamo ora in Scozia, dove scompare la parola papà dalla guida del servizio sanitario per i nuovi genitori. La ragione? Non urtare la sensibilità delle coppie omosessuali. Niente più papà, soltanto un più neutrale partner. La Ready Steady Baby, guida gratuita del servizio sanitario scozzese per i nuovi genitori, abolisce la parola dad, papà appunto, per non offendere la sensibilità dei genitori omosessuali. I redattori del volume hanno ricevuto una lettera di protesta, secondo cui l'espressione papà non è una parola che rispetta chi ha relazioni con persone dello stesso sesso. Da qui la decisione, fin troppo politicamente corretta, di far scomparire ogni riferimento alla paternità nell'edizione di quest'anno. Una scelta, peraltro, costosa per le finanze statali. Per stampare le 90.000 copie della nuova versione sono state spese 100.000 sterline, ovvero oltre 125.000 euro. Immediate le polemiche nel Regno Unito, legate allo spreco di denaro pubblico tanto quanto all'eccesso di correttezza politica. Ma il servizio sanitario scozzese difende la sua scelta. C'era bisogno di usare un linguaggio più inclusivo per tutti. Francesco Riccardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un test europeo contro il razzismo nei locali di divertimento. Sentiamo di cosa si tratta. Se sei nero, arabo o rom, qui non puoi entrare e se 3 volte su 4 riesci a varcare la soglia di una discoteca, ti capiterà almeno una volta di non poterlo fare. A dirlo una ricerca dell'EGAM, il Movimento Europeo Antirazzismo, che la notte di sabato 26 maggio ha verificato le discriminazioni nei luoghi di intrattenimento in 6 paesi europei: Italia, Francia, Austria, Serbia, Romania e Norvegia. Il risultato è che nel 25% dei casi nei locali viene negato l'accesso a persone di origini africane o rom. Diverso il caso italiano, nessuno sbarramento all'entrata su base razziale, ma all'interno delle discoteche c'è una discriminazione se il cliente ha la pelle bianca o nera. È un test che tenta di coinvolgere le istituzioni europee contro il razzismo e l'antisemitismo. Nel 2011, come conseguenza della verifica, Varsavia decise di includere una clausola nei contratti di lavoro contro le discriminazioni, imponendo anche la chiusura dei locali in caso di violazioni. Secondo l'EGAM è il modello Varsavia che le autorità europee dovrebbero seguire. Doriana Leonardo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo in Italia, diminuiscono le rapine in banca, scese nel 2011 del 23%, sebbene l'Italia mantenga il primato nell'Unione Europea. Lo scrive l'ABI nel suo rapporto sulla sicurezza, in cui indica l'uso eccessivo dei contanti come il maggior fattore di rischio. Con il calo delle rapine in banca, spiega l'ABI, i furti si spostano verso farmacie, benzinaie e tabaccherie. E torniamo a parlare del G8 di Genova. Non ci sarebbe alcuna prova del coinvolgimento dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro nelle violenze ai manifestanti della scuola Diaz. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui ha prosciolto De Gennaro, oggi sottosegretario ai vertici dei servizi segreti. Per la Suprema Corte restano però inqualificabili le violenze avvenute all'interno della scuola e con inusitata violenza, scrivono i giudici, è stato eseguito l'intervento della polizia nella scuola dove si trovavano ragazzi provenienti da tutte le parti d'Europa e del mondo. Al microfono di Giorgia Mennuni, l'europarlamentare Vittorio Agnoletto. Tutto come da copione, tutto era già stato scritto da molto tempo, fin da quell'ormai lontano luglio 2001. I vertici della polizia non pagheranno mai per le violenze della scuola Diaz, sono totalmente intoccabili e la lettura delle motivazioni, o perlomeno di quelle parti delle motivazioni che per ora sono state rese pubbliche, confermano ancora una volta che la sentenza di assoluzione di De Gennaro, senza nemmeno il rinvio a un nuovo processo, prescinde totalmente da qualunque questione di diritto. Ma ribadisce una verità molto semplice. Nel nostro paese c'è chi è al di sopra di ogni legge. 24 ore in Europa termina qui. Un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.